locura brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ancora sulla sigla mi domando chi me l'abbia fatto fare questa mattina, ma ormai ci sono e vado avanti. Io mi arrovello da qualche settimana con un pensiero fisso che voglio riportare questa mattina alla radio, confidando nel supporto dei miei ascoltatori per riuscire a chiarirmi o perlomeno a districarmi questo pensiero. Esiste senza dubbio, indubbiamente, senza ombra e possibilità di essere messo in una forma dubitativa, un unico grande episodio che ha segnato la storia di questi ultimi decenni, che ha una sua unicità. Poi uno può dare tutte le sfumature, abbandonarsi a tutti i revisionismi, vederlo da tutti i punti di vista che vuole. Ma il nazismo e lo sterminio degli ebrei è qualcosa che indubbiamente lascia delle perplessità insanabili su come possa essere accaduto che a un certo punto, nel luogo più civilizzato dell'Europa, nella culla di tutto ciò che rappresentava il culmine massimo dell'umanità dal punto di vista della produzione artistica, della musica, dell'arte, del pensiero, via dicendo, sia accaduto qualcosa di così devastante, così improvviso e così normale. Che persone normali improvvisamente abbiano guardato la persona che avevano accanto e solo per il fatto che avesse una divisa, un'insegna addosso, abbiano cominciato a considerarla non più come un essere umano, come pelle da paralume, ossa da colla, denti da rifondere per farne monili, insomma qualcosa che non è più nemmeno la dignità lontana di appartenere a un essere umano. Detto questo, chiudiamo la parte di analisi concreta e reale di un fenomeno storico su cui si parlerà ancora chissà per quanto tempo. Esistono, soprattutto negli ultimi anni, delle forme che non appartengono agli strumenti aulici e ufficiali della lettura storica, che hanno trattato questo argomento, questo grande enigma della contemporaneità, con un taglio che non è esattamente quello del racconto storico fedele o di una lettura, seppur parziale, comunque appoggiata su elementi storicamente accertati. Sono alcuni registi che si sono appoggiati al loro estro, alla loro fantasia, alla loro maniera di cifrare la realtà, che hanno raccontato nazismo e olocausto secondo stili che non sono quelli che ripercorrono tutta una filmografia che comunque in maniera variegata, con riuscite più o meno percepibili, ha trattato questo argomento. L'uno è il film che si è meritato anche l'Oscar di Roberto Benigni, La vita è bella, del 1997, che è una storia di un internato in un campo di concentramento, si porta dietro il figlio e riesce a far vivere al figlio questa tragedia drammatica come se fosse un gioco di ruolo. L'altro è il fantastico film, questo aggettivo già, ahimè, determina e sconfessa quello che è il mio punto di vista, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, che è un film raccontato con lo stile Tarantino, a sua volta cita tutta una lettura di serie B di ogni fenomeno storico, di ogni fenomeno di costume, che sono i filmacci di guerra fatti nell'immediato dopoguerra, che un po' ricalcavano dal punto di vista della ripresa cinematografica quei fumetti che giravano qui in Italia, che si chiamavano Collana Eroica, Supereroica, che erano dei giornaletti carini, parlavano di guerra, eravamo molto vicini alla guerra negli anni 60-70, però c'era, non so, un americano da solo con uno stuzzicadente che sgominava un battaglione di tedeschi armati fino ai denti. C'è una comprensibile sproporzione nelle capacità, nelle potenzialità di offesa di chi aveva vinto la guerra rispetto a chi l'avesse persa. Beh, Bastardi senza gloria va molto oltre, si immagina una fantastica brigata di ebrei armati, addestrati, che entrano in territorio nemico e compiono delle azioni comando, però con il fine ultimo di scalpare con dei grossi coltelli i loro nemici. Quindi a un certo punto la cattiveria, la crudeltà attraversa comunque tutti coloro che sono trovati a combattere in questo delicato frangente. Beh, questa mattina la domanda che vi faccio è, secondo voi sono possibili queste riletture, sono convincenti? La storia, man mano che passano gli anni, si sfuma talmente rispetto a ciò che realisticamente è accaduto, che può permettersi anche queste aggressioni che comunque fanno riflettere, sono oggetto di riflessione? Beh, la domanda questa mattina è chiara e rivolta soprattutto a chi ha visto questi due film, ma anche a chi comunque ha in mente altre riletture di questo momento tragicamente epico della nostra storia. 800 24 0024. Monsieur Lapadit, il tratto che fa di me un così efficace cacciatore di ebrei, io so pensare come un ebreo. Se si dovesse determinare quali attributi gli ebrei condividono con una bestia, sarebbero quelli del ratto. I ratti le hanno fatto qualcosa per creare l'animosità che sente nei loro confronti. Diffondono le malattie, mordono le persone. Io penso questo. Le malattie diffuse dai ratti possono essere diffuse anche dagli scoiattoli. Eppure immagino che non nutra per gli scoiattoli la stessa animosità che ha per i ratti. No. Eppure sono entrambi roditori, no? E a parte la coda, si somigliano perfino. Non sa bene perché non... Questo è il personaggio fondamentale del film Tarantino, il colonnello nazista Hans Landa, personaggio fantastico, attore scoperto improvvisamente che si meriterà sicuramente riconoscimenti importanti, personaggio strano, sinistro, subdolo, ma perfettamente consapevole di quello che è in fondo il senso profondo di chi cavalca la storia e il tempo che sta vivendo. Cacciatore di nazisti, astutissimo, lo fa come farebbe qualsiasi tipo di lavoro. La sua crudeltà è tecnica, scientifica, è sedimentata nel suo essere, profondo e raffinato conoscitore di cultura, di lingue. Questo è tutto un film basato sul gioco linguistico, sulla contraffazione del linguaggio, sulla scoperta della reale identità attraverso le inflessioni linguistiche. E questo è l'inizio del film, in cui si reca a casa di un contadino francese che nascondeva degli ebrei sotto il pavimento, ma lo sapeva perfettamente il colonnello nazista, ma impiega una lunga mega sequenza per scoprire e avere il piacere di massacrare queste persone. La persona che si salverà da questo massacro è poi la vera protagonista del film, che è una ragazza che riesce a sfuggire miracolosamente a questo attacco, Shoshana Dreyfus, la figlia appunto di questa famiglia ebrea massacrata, sarà poi la protagonista del resto del film. Josué, babbo, qua è bruttissimo, Puccio, voglio andare dalla mamma. Dai, ci andremo. Ho fame, mangeremo. E poi sono cattivi, cattivi, urlano. Ma urlano perché il bambino è grosso, un carro armato vero fa quello a tutti, sai, devono essere duri. Ma posso vedere la mamma? Quando finisce il gioco. E quando finisce? Bisogna fare 1000 punti. Chi fa 1000 punti vince un carro armato vero. Questo invece era l'incipit della storia di Roberto Benigni, con il bambino internato nel lager, che riuscirà comunque a far vivere il bambino una fantastica avventura, come se fosse un gioco di ruolo, senza far avere lui la percezione, se non fino al momento in cui il padre poi viene fucilato, ma nemmeno questo comunque riesce nel disegno fantastico e surreale del padre a ferire l'emotività del bambino, che penserà che è comunque una parte del gioco. Oggi ho in studio un critico cinematografico, autore di un film, Zemanlandia, profondo conoscitore non soltanto del cinema aulico, ma anche di tutte le stratificazioni di cinema in paraticcio, casareccio, fantastico, non a caso ispiratore, linfa vitale del cinema di Benigni, che rappresenta l'humus di queste ricostruzioni di cui stiamo parlando. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto, rispetto a queste due ricostruzioni e rispetto alle diverse metodologie di raccontare una tragedia in maniera non didascalica, non ufficiale. Allora, a me interessa molto di più l'approccio cannibalesco di Tarantino, il grottesco di Tarantino, che il sentimentalismo un po' di amicisiano, nell'accezione peggiore del termine, di Benigni, cioè anche musicalmente strombazzato. Mi interessa poco, lo trovo un po' mistificatorio. Un po'... Però Benigni ha preso l'Oscar, Tarantino, ancora gli intellettuali impegnati storcono il naso, nella peggiore ipotesi dicono ma non l'ho molto capito. No, Tarantino sicuramente è una macchina che tritura cinema, lo rigurgita e lo rielabora. Lui ha sicuramente segnato negli anni 90 il linguaggio, la rielaborazione di tutti i B-movie che ha visto, e in maniera automatica li ha riespulsi, creando dei personaggi strepitosi. Secondo me in quest'ultimo film, come dicevi prima, Hans Landa o Christoph Waltz, l'attore che fa il colonnello SS, è la chiave, è il perno di tutto il film ed è il personaggio più geniale, perché ha questo approccio appunto anche straniante. La scena più bella è quando fa quella risata molto sinistra dentro il cinema. È una figura effettivamente di grande peso che fa emergere tutto il grottesco che c'è in Tarantino. Però rispetto alla tragedia, sicuramente appunto il sentimentalismo non mi piace, lo trovo mistificatorio quello di Benigni. Quello di Tarantino, in Tarantino c'è qualcosa di sul grottesco che è effettivamente interessante. Entrambi usano una chiave per demolire delle letture emotive tradizionali per raccontare una tragedia, per cercare di raccontarla con un linguaggio diverso. Benigni usa i toni della favola, ma sconfessata, palesata, soprattutto estremamente glorificata, estremamente annunciata, e via dicendo. Tarantino usa un taglio di crudeltà, di cattiveria unica, la gratuità di questa brigata di comando ebrei che uccidono i nazisti a mazzate e che li scalpano, che non hanno nessun tipo di pietà, ma allo stesso tempo poi questa enorme, divertente, rutilante saga di questi personaggi che vanno a farsi saltare dentro un cinema, che poi fanno delle cose realmente eroiche. Esistono delle citazioni nel B-movie che tanto ci affascina, che possono aver costruito poi questa lettura del film di Tarantino? Sì, la citazione più esplicita è quella di quel maledetto treno blindato di Castellari, che è un omaggio esplicito che Tarantino fa a quel tipo di cinema. Era un cinema che lui amava perché era sfrenato, questo cinema nato negli anni 70 che affrontava qualsiasi argomento con una sfrenatezza, una libertà, un eccesso, una mancanza anche di etica assoluta, sia visiva che di qualsiasi tipo. Film come La bestia in calore, cioè dei film in cui c'erano queste perfide eroine naziste che creavano il laboratorio dei mostri per far violentare le donne, cioè erano film senza freni, e Tarantino questa sfrenatezza la recupera e la riporta nel mainstream del suo cinema. Io devo dire una cosa però, rispetto a quei due esempi che tu hai citato, io preferisco comunque il grottesco che ci può essere in un Duval, in Apocalypse Now, quando sente l'odore del napalm la mattina, che odora di vittoria, quando fa surf. Non a caso è la frase che riassume quel film nella memoria collettiva. Esatto, perché comunque la guerra ti porta a surriscaldare e a portare alle estreme conseguenze delle tensioni che sono nella vita di tutti i giorni, e le porta alla tragedia in una dimensione metafisica per forza. L'aspetto un po' babboccesco del film di Tarantino comunque è, secondo me, rispetto alla grandezza grottesca di Apocalypse Now, è un po' sminuito rispetto a quello, secondo me. Sentiamo cosa dice Giorgio, un ascoltatore, il primo ascoltatore. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a tutti. No, io più che del film, che quello di Benigni mi è piaciuto moltissimo, quello di Tarantino sono venuto via a metà perché lo trovavo noioso e inutile. Perché inutile? No, scusi, è noioso, posso capirlo. Sì, inutile perché secondo me un film di guerra deve essere perlomeno un minimo di dente, nel senso, quello che diceva lei, che con uno stecchino gli americani sterminano un battaglione di tedeschi, non è la realtà. Cioè, uno va a vedere un film di guerra e vuole anche divertirsi. Se diventa uno non va a vedere un film di guerra, va a vedere un altro. Beh, però lei è uscito, si è perso la parte migliore, l'attentato al cinema. Sì, va bene, ma era talmente noioso, l'ho trovato particolarmente noioso. Ma non volevo dire questo, non volevo parlare di cinema, volevo dire una cosa che è alla base di questa discussione che lei ha impostato stamattina sul discorso dei film, è che quando scoppia una guerra la prima vittima è la verità. Quando la guerra finisce, lo diceva anche Baudrillard, certo, chiaro, sì, quando la guerra finisce, le bugie dei vincitori diventano storie, vengono scoperte le bugie dei vinti, che diventano ovviamente la parte più cattiva di tutta. Beh, anche la l'epica omerica affonda su questo equivoco, probabilmente è sempre stato così, ma fa parte. Sì, sì, sì. È stato così. Quando mai i vinti hanno potuto fare la storia? È normale. Cosa, ecco, nel senso, che il concetto è che i film rispecchiano questa cosa, sono soprattutto fatti dagli americani, per esempio un discretissimo film che ho trovato molto intelligente, che è La Caduta, quello sugli ultimi giorni del Führer nel bunker, che anche se fatto dai tedeschi, lo trovo un film storicamente un pochino più... Sì, ma io questa mattina, guardi, non volevo parlare di film che hanno delle letture eque della storia, anzi, più sono inique e più mi diverte. Erano sì, delle maniere di raccontare... la mia opinione sull'iniquità. Sì, sì, sì, sì, sì, ma è lecito. Sono film entrambi iniqui, se vogliamo, da un punto di vista, ma hanno usato toni diversi, maniere diverse, strumento narrativo diverso. Volevo capire questa mattina con gli ascoltatori quanto questa differenza li abbia colpiti. Sono il tenente Aldo Rain e sto mettendo insieme una squadra speciale e mi servono i miei 8 soldati. 8 soldati americani e ebrei. Come guerriglieri in agguato alla macchia faremo una cosa e una sola: uccidere i nazisti. I nazisti non hanno umanità. Sono i soldati di un pazzo che odia gli ebrei e pratica l'omicidio di massa e devono essere eliminati. Saremo crudeli con i tedeschi e attraverso la crudeltà sapranno chi siamo. Troveranno le prove della nostra crudeltà sui corpi dei loro fratelli smembrati, dilaniati e sfigurati che ci lasceremo dietro. E allora i tedeschi non potranno fare a meno... Emiliano Morreale, buongiorno. Buongiorno. Studioso di cinema, autore dell'Invenzione della Nostalgia, Donzelli Editore, che ho avuto in trasmissione poco tempo fa. Ecco Emiliano, il tuo punto di vista, vediamo se riusciamo a far capire al pubblico meglio, se tu hai capito perlomeno quello che è la mia intenzione. Non è la ricostruzione della storia attraverso un film, ma è lo strumento narrativo che si usa per raccontare la storia in maniera fantastica, favolosa, irreale, parziale, quanto vuoi. Certo, l'idea appunto non è qual è il film che si avvicina di più alla verità sulla Shoah, no? Evidentemente. No, entrambi sono letture totalmente... Totalmente fuorvianti. Il problema è, se non ho capito male, quale sia la chiave in qualche modo più feconda e quanto sia lecito queste, diciamo, letture travisamenti espliciti e creativi della storia. Ma io sul lecito secondo me sono leciti tutti al momento che è dichiarato all'inizio, non sì, sono sì. Film dichiarati in quanto film storici. Diciamo, io nella mia fantasia, nella mia creatività, mi permetto di rileggere anche qualcosa che sembra intoccabile da riletture che non si facciano in punta di piedi di fronte alla tragedia della cosa, e lo faccio. Man mano che andiamo avanti nel tempo, aumenta il livello di efferatezza di questa rilettura, efferatezza tra virgolette, in termini positivi, in termini di possibilità di aver superato un momento storico, poterne parlare in tutte le chiavi. Certo, io direi che i due film, anche io sono grosso modo sulle posizioni di Giuseppe Sanson, che ho sentito poco fa e che saluto. Effettivamente, diciamo che se dovessi dire delle due vie, quella più creativamente onesta, diciamo, quella con la migliore, se possiamo così dire, giustizia poetica, è quella di Tarantino. Comincia il gioco, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quella parlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen? Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, drittens, jeder Versuch eines Aufstandes... La vita è bella di Roberto Benigni. Benigni decodifica e traduce erroneamente il discorso del nazista che dà le direttive ai prigionieri del lager, facendo credere al figlio che sta dando le regole del grande gioco di ruolo in cui si stanno provando. Non devo far altro che sollevare questa cornetta qui, informare il cinema e il vostro piano sarà kaput. Ma non avrete Hitler, non avrete Goebbels, non avrete Göring e non avrete Bormann. E dovete ucciderli tutti perché la guerra finisca. Ma se io non sollevo questa cornetta qui, potreste ucciderli tutti e quattro. E se li uccidete tutti e quattro, la guerra finirà stasera. Allora, signori miei... Questo è Hans Landa, il nazista cattivo, che è talmente cattivo ma talmente intelligente, come tutte le caldità politiche a cui siamo abituati, anche nella nostra più stretta attualità, sa perfettamente che la sua cattiveria può essere messa a frutto anche della sua salvezza, che proprio perché è cattivo può fare esattamente quello che poi hanno fatto molti nazisti e molti fascisti: hanno ricostruito la classe dirigente politica dei liberatori. Quindi già in sé c'è una fantastica lettura dell'aspetto più imbarazzante e dei momenti più imbarazzanti della storia. Beh, questa mattina stiamo cercando di confrontare la storia quella brutta, quella cattiva, quella che fa male, quella di cui si parla con un profondo disgusto, riletta in maniera fantastica, attraverso strumenti che nulla hanno a che fare con la volontà di dare delle ricostruzioni corrette della storia, o anche parziali, ma basate comunque su un'ideologia. Ognuno usa il suo sistema. Roberto Benigni usa la favola, usa il racconto sdolcinato, usa l'eufemismo, usa soprattutto l'apoteosi della rassegnazione. L'internato Roberto Benigni già ha in sé la vocazione dell'olocausto, la sicurezza che sarà olocausto, ma cerca di passare nella maniera migliore il tempo che lo porta allo scannamento. I Bastardi senza gloria di Tarantino invece fanno tutto quello che probabilmente molti hanno pensato di fare e non hanno mai voluto fare: il grande rimosso, la grande angoscia, perché non abbiamo fatto nulla, perché non ci siamo rivoltati. Nel film, un altro film che racconta questo periodo storico, Il pianista, film di Roman Polanski, a un certo punto la famiglia degli ebrei, i genitori di Spielman, il pianista protagonista realmente esistito, dicono: ma non ci lasceranno soli gli ebrei americani, sono ricchi, hanno tutto, ci verranno a prendere, dice l'ebreo del ghetto di Varsavia, ma nessuno lo verrà a prendere. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, dottore. Volevo dire che il dottore stamattina... in questi tempi cura l'influenza. Mi chiamo Gianluca. Va bene, Gianluca, grazie per la confidenza. Che... dai, va al punto. Comunque volevo dire, ieri sera proprio ho visto questo film, Bastardi senza gloria, e stamattina in effetti quando ho acceso la radio stavo pensando proprio a questo film, perché mi ha colpito tantissimo, ho trovato entusiasmante. Ogni scena... ti tiene in suspense. E volevo dire che questo film effettivamente ha degli elementi di realtà. Uno è quello che ha citato lei, cioè la crudezza dei personaggi, la crudezza anche delle scene, il fatto che non c'è pietà, quindi è stato così. Poi direi che non è un film che possiamo richiamare alla realtà storiografica, perché c'è una scena che è emblematica. In tutto il film, perlomeno per me, io immaginavo cosa sarebbe successo con Hitler dentro il cinema, perché nella realtà chiaramente Hitler è morto in altre circostanze. Non facciamo uno spoiler troppo acceso, perché sennò condanniamo all'infelicità chi ancora deve vederlo. Fermiamoci al personaggio. C'è una rappresentazione di Hitler abbastanza atipica rispetto a tutte le rappresentazioni della cattiveria del personaggio chiave del Novecento, perché non esiste nessun altro di cui si parlerà, e si parlerà tanto quanto appunto Hitler. Tarantino lo raffigura come un fradicio vecchio isterico, totalmente sfatto anche nel fisico oltre che nella mente. Sì, è vero. E lui secondo me capovolge un po' tutti gli schemi in generale, quelli che sono della realtà. Quindi diciamo, non possiamo considerare questo film come un film da rapportare a quella che è la realtà. Gli elementi di realtà che io trovo sono quelli proprio della crudezza. E poi volevo dire un'altra scena che mi ha colpito moltissimo, una scena che si svolge in una caverna dove per alcuni minuti ci sono dei personaggi. Quella scena è la seconda macro sequenza fondamentale del film. Mi hai fatto venire in mente i film di Sergio Leone, quando ci sono quelle scene che durano minuti tra i pistoleri che si affrontano, no? Ma la chiave è proprio quella, può dirle Giuseppe Sanzon che è in studio con me, che sì, è la citazione è formidabile, proprio sì, quella. Sì, sì, a me ricordava anche, per esempio, Per qualche dolore in più, quando si incontrano Clint Eastwood, Klaus Kinski dentro la taverna con l'indio, insomma, quella tensione fra personaggi, quegli sguardi, quel tutto sospeso all'interno di questo interno. Lui ha rimasticato tutto questo e lo rielabora sempre in maniera brillante. Tarantino ha questa forza. Ecco, come vedi te l'attingere a questo tipo di fonte da parte di Tarantino? Tarantino attinge a delle fonti che vengono considerate le più detestabili della storia della nostra epoca: i B-movie, i fumetti, la subletteratura considerata come retaggio dell'infanzia. Però guarda caso è quella che, almeno dal piccolo indicatore che ho nel mio pubblico, che tocca più profondamente le leve dell'emotività di chi poi vede il film. Certo, lui è, in questo, per dirla con un termine abusato, è un postmoderno pieno, nel senso che per lui in qualche modo non esistono né la storia né in fondo la realtà esterna, esiste soltanto altri testi da citare, altri film, altre canzoni. Da questo punto di vista, una cosa che può apparire sconcertante, ma va detta, per lui la Shoah è un genere cinematografico. Cioè, questa è la cosa prima e al posto di qualunque altra cosa. È questo che può sconcertare e che sconcerta molto più di Benigni, no? che può urtare il pubblico medio più di Benigni, perché Benigni invece ha molto presenti, per esempio, le gerarchie fra alto e basso, fra arte alta e arte bassa, anche se finge di volerle ribaltare, ci lavora su in maniera molto tenendole distinte, dicendo io guardate sono l'umile comico che però vuole fare il film alto, quindi nobilita ancora di più l'idea dell'arte. Ma chi è il vero intellettuale secondo te? Colui che riesce a intercettare tutti i segnali dovunque provengano, o colui che si adegua comunque a dei codici di eccellenza dei segnali dell'epoca in cui sta vivendo? Sicuramente dei due il più paradossalmente direi che il più moderno dei due è Tarantino, ma il più popolare è Benigni, nel senso che è popolare nel senso in cui non esiste più un popolo, il più, diciamo, avrebbe detto un vecchio sociologo, mid-cult, perché non esiste più il cinema popolare, esiste il cinema, diciamo così, medio colto. La cosa che volevo dire, una cosa riguarda la crudeltà di cui parlava prima un ascoltatore. Ecco, quegli ebrei crudelissimi, quel comando di ebrei ferocissimi, che sono più feroci dei nazisti per quel che se ne vede nel film, no? E sono, rimandano a un'altra grande differenza, cioè dicevi tu prima, Benigni si dà da subito, c'ha già la faccia della vittima sacrificata dell'olocausto fin dalla prima scena. In questo è un film sul seminario degli ebrei, ma è un film in qualche modo, se vogliamo, cattolico a suo modo, mentre Tarantino è assolutamente pagano in questo, è quasi omerico, perché per lui la ferocia è una virtù, è una cosa terribile che è totalmente immorale in una società, diciamo, cristiana, ma per lui, ma non solo in questo film, anche in Kill Bill, per esempio, o nello stesso Pulp Fiction, cioè le persone feroci e spietate sono cool, direbbero gli americani. Però scusami, come lo è Achille. Emiliano, all'inizio abbiamo detto che non ci spieghiamo ancora, e questo è il grande dilemma in cui si dibatte la storiografia contemporanea, come mai la culla della civiltà dell'Occidente, che era la Germania, appunto, dei primi anni del Novecento, ha poi fatto scaturire quello che è il nazismo. Ma hai risposto te esattamente adesso, perché la crudeltà, quando diventa apoteosi, è qualcosa che esce, perlomeno nella concezione e nel quadro in cui si è verificato, esce la definizione di cosa sia bene e cosa sia male. È appunto una epica violenza, che è una dimostrazione di forza, e così spieghi anche il fenomeno. Antonella, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo, appunto, lei ha detto, è stato detto praticamente tutto quello che volevo dire. Comunque, la grossa differenza, al di là del fatto che i due film mi sono piaciuti tantissimo tutte e due, è che immediatamente in quello di Benigni c'è la sensazione di favola, c'è la presenza del bambino, quindi è una dimensione... Anche Tarantino appunto inizia con una bambina che scappa contro ogni regola e si salva. È assolutamente diverso, perché appunto la tensione che dà Tarantino è immediata, quella di Benigni viene un po' diluita, tutta la prima parte del film è, anche se si suppone, come diceva lei, l'olocausto finale e si sa, però è diversa, cioè i bambini lì dà una dimensione assoluta di favola, in quello di Tarantino immediatamente questa sensazione di favola non esiste, e c'è questa, invece, secondo me, questa tensione tremenda che è dovuta al fatto che può essere. Nel film di Benigni immediatamente si capisce che non può essere successo così, invece nell'altro può essere successo. Ha detto una cosa così molto saggia, Antonella, me lo sono detto anch'io, non dico come finisce il film Tarantino, se no tolgo la sorpresa, ma il film Tarantino è fatto e studiato e organizzato in maniera folle proprio perché è plausibile, potrebbe essere anche accaduto quello. Nessuno ci impedisce di pensare che quello possa essere realmente accaduto, che in realtà la fine di Hitler e del comando superiore nazista sia avvenuto secondo la ricostruzione Tarantino. Digli di indicarci la postazione dei tedeschi. Se dovessi sopravvivere alla guerra, quando tornerai a casa, che farai? Abbraccerà la madre. Ma che bravo ragazzo. Chiedigli se si toglierà l'uniforme. Vuole bruciarla. È come pensavamo. Non ci piace. Vedi, i nostri nazisti ci piacciono in uniforme, così li riconosciamo subito, al volo. Ma se ti togli quell'uniforme nessuno saprà che eri un nazista. Questo non ci sta bene per niente. Così ti darò una cosetta che non potrei toglierti. Il capo dei Bastardi senza gloria, Aldo Rain, Brad Pitt, prende il suo pugnalone pelle rossa e incide la svastica sulla fronte del nazista, lo segna a vita. Anche quando poi, a guerra finita, a patti fatti, a chi si è visto, a volemose bene, torneranno a far parte della classe dirigente dei paesi che rinascono, avranno sempre comunque la svastica segnata, indelebile sulla fronte. Stop! Questa è la mia storia. Mamma! Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto. Giosuè! Questo è stato il suo regalo per me. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! Giosuè! 1000 punti da schiantare, da ridere! Primi si ritorna a casa col carro armato! Abbiamo vinto! Questo è il finale della Vita è bella. Benigni è stato fucilato, è passato per il camino del campo di concentramento, il bambino è contento, abbiamo vinto, con la mamma si avviano verso un futuro radioso di ricostruzione e di boom economico. Questa mattina abbiamo messo a confronto due maniere eterodosse di rileggere la storia. La storia è difficile ad essere ricostruita in maniera oggettiva anche con gli strumenti ufficiali di narrazione storica. Abbiamo scelto le più rituali maniere di riconoscere la storia. L'una, quella della bella favola a buon fine che si racconta ai bambini perché non facciano cattivi sogni, come lo fa Benigni. L'una, quella della cattiva storiaccia di guerra, sanguinosa, fatti di pelle rosse, fatti di cattivi soldati, fatti di schizzi di sangue, fatti di uomini che comunque hanno la speranza o il desiderio di concretizzare quello che è il grande rimosso del fenomeno di cui stiamo parlando, terrificante fenomeno che nessuno, come già dissi prima, che dice il protagonista dal ghetto di Varsavia del film Il pianista, nessuno ha fatto nulla per poterlo impedire, nessuno perlomeno ha provato a ribellarsi. Riccardo, buongiorno. Ah, buongiorno, salve. Senta, io non mi picco di essere né intelligente né cultura chic. Ritengo che il film di Benigni sia evidentemente una favola geniale, mentre il film di Tarantini mi sembra un'occasione persa. Ci sono degli spunti fantastici, veramente ne avrebbero potuto fare un capolavoro, però ne è uscito fuori un fumettone, secondo me. Riccardo, fumettone lo trova un termine denigratorio. Io fumettone trovo una delle più formidabili maniere per raccontare la contemporaneità. Grazie a Dio è un fumettone. Sì, se mi lascia dire una cosa, forse mi rendo più chiaro. A me i fumetti piacevano da ragazzo. E non per niente i miei figli, che hanno intorno ai 30 anni, hanno detto che il film di Tarantini è geniale, mentre io ritengo geniale quello di Benigni. Io forse penso che nell'età, nella cultura dei giovani rispetto a quella di me, che sono quasi sessantenne, ci sia la differenza nel vedere e nel giudicare questi due diversi film. Lo so, lei ha abbandonato il Piccolo Principe, noi invece l'abbiamo sempre vicino, quindi io continuo a vedere la vita come un grande fumetto. Il fumetto è la base culturale più formidabile sulla quale mi sono formato, e ancora i filmacci della mia fanciullezza, i fumetti della mia denigrata adolescenza sono i fondamenti della mia lettura del mondo. Emiliano Monreale, ci eravamo interrotti, mi piacerebbe capire, visto che è emerso in maniera così forte l'elemento infantile, l'infanzia a un certo punto non diventa più il metro di lettura della realtà, anche della storia più terrificante, più paurosa, e quindi c'è una lettura adulta. Invece Tarantino ne fa una lettura, se vogliamo, legata a un punto di vista dell'infanzia, che è radicale, drastico, sanguinolento, furioso e assolutamente privo di razionalità. Sì, io direi che questa è anche la cosa comune tra Benigni e Tarantino, ancora una volta con delle differenze, cioè La vita è bella sceglie come dire, nella sceneggiatura, programmaticamente, la prospettiva del bambino, no? O meglio, di raccontare la Shoah a un bambino, nascondendogliela. Invece Tarantino dice, vabbè, prendiamo il nazismo e raccontiamo e viviamo come lo vivrebbero dei bambini cattivi. La differenza è quella, cioè il bambino di Benigni è buonissimo, i bambini di Tarantino, perché sono bambini quelli lì, no? Cioè hanno la crudeltà e la moralità dei bambini, sono cattivissimi. ma il dato comune è l'infantilizzazione del punto di vista, cioè comunque questo riguarda non solo loro due, ma riguarda la maniera della percezione del passato. Perché Tarantino urta di più? Perché porta questa cosa alle estreme conseguenze, mentre Benigni ci mette dentro un superio, ha un paternalismo di fondo che Tarantino non ha. Tarantino è sconcertante perché, come dire, dice, e in questo si rende antipatico anche a me personalmente. Cioè, ecco, per dirla con una metafora che sarebbe piaciuta a Umberto Eco, la storia di Benigni come l'avrebbe raccontata Garrone ai propri figli, la storia di Tarantino come l'avrebbe raccontata Franti, Giuseppe Sanzon. A me dà proprio, riagganciandomi a quello che giustamente dice Emiliano, mi dà proprio l'idea di Tarantino che gioca coi soldatini. Io ho questa immagine quando vedo un gioco feroce, estremo, ma... Esisteva gioco migliore della nostra infanzia. No, appunto, l'evocatività e il cinema nasceva lì. Lui infatti lo cita in qualche intervista, la madre che lo sentiva agitare due pupazzetti e farli bestemmiare fra di loro. È stata la prima immagine della sua infanzia, con la madre che entra preoccupata in stanza e lo sente che sta animando queste due figure di plastica. Quindi io ci ho visto molto il bambino è lui, mentre in Benigni c'è la poesia un po' con la P maiuscola, un po' declamata, questo tentativo eccessivo anche di declamare la poesia e rendere Tarantino in questo è decisamente più interessante. Poi soprattutto nel finale, quando lui è sempre interno ai generi cinematografici Tarantino, e quindi, come diceva Emiliano prima, non vuole che il nazista esca dal personaggio, quindi il tatuare la svastica sulla fronte, inchiodarlo alla sua divisa, al suo personaggio per sempre, cioè, perché tutto vive nel genere cinematografico in Tarantino, tutto è interno al cinema. Luca, l'ultima battuta al nostro ascoltatore. Sì, buongiorno. Innanzitutto volevo dire che nessuno dei due film aveva velleità documentaristiche, quindi mi sembra anche abbastanza inutile andare a cercare. Ma io penso che nemmeno un documentario sulla guerra ha velleità realistiche, è sempre un'interpretazione. Quindi la verosimilanza dei due lascia un po' il tempo che ma non la chiedevamo all'inizio, chiedevamo semplicemente la scaturigine delle sensazioni che danno. Secondo me la genialità del film di Tarantino è un punto di riflessione abbastanza nuovo, credo, nel senso che dimostra come la parte del buono e del cattivo nella guerra, a seconda dell'occasione, della situazione, del momento, è intercambiabile, perché quelli che noi abbiamo sempre considerato come le vittime storiche della Seconda Guerra Mondiale, cioè la popolazione ebrea, in questo caso erano gli assassini più efferati e violenti. Non è esattamente così, forse le considerare una revisione un po' più attenta, non è che sono gli assassini più efferati, è la radicalizzazione attraverso una tecnica da fumetto, proprio da film d'avventura, di un senso e una volontà inespressa di rivolta, di combattere il male con strumenti altrettanto forti. Ringrazio Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti, ringrazio i miei ospiti, ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Radio 24. La passione si sente.